Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. www.radio24.it è il nostro sito, potrete scaricare le puntate quando siete più comodi, in tempo pressoché reale, oppure comodamente la sera magari in poltrona con due cuffie. Potete visitare il blog per i giornalisti che lo hanno, il mio lo conoscete, sotto il mio profilo trovate Guardie o Ladri, lo stesso blog lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Seconda informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, voi sapete che in questi anni abbiamo affrontato molto spesso il tema degli abusi edilizi. Lo abbiamo affrontato al nord, lo abbiamo affrontato, ahimè, più spesso al sud, perché chi più ha, spesso anche, diciamo così, in bellezze naturali, spesso è molto più bravo a farsi del male, e quindi abbiamo un sud semplicemente devastato da una serie di abusi edilizi a catena di proporzioni gigantesche. Ma il nord non è immune, lo abbiamo detto, spessissimo ne abbiamo parlato. Oggi parliamo di un piccolo caso, ma vedremo se si tratta di un'eccezione, di una denuncia forzata, di un caso singolo, e ci viene proprio dal nord, dal nord-est, dalla provincia di Venezia. Ci viene da Mirano, e a segnalarci il caso dell'abusivismo edilizio nel comune di Mirano è il nostro radioascoltatore Alberto Sabadin. Buongiorno Sabadin. Buongiorno. Messo a confronto, non perché sia la controparte, diciamo così, ma soltanto dialetticamente parlando, messo a confronto con l'assessore comunale ai lavori pubblici, che è Maurizio Spolaore. Buongiorno Spolaore. Buongiorno. Allora Sabadin, che cosa denuncia lei, per quella che è la sua esperienza, nel comune di Mirano? No, io sono a portare a conoscenza di un fatto. Praticamente il 4 aprile 2007 ho denunciato un abuso edilizio. Purtroppo sono passati 3 anni e nulla è stato fatto, se non che praticamente continuare a sollecitare una parte dell'amministrazione pubblica del comune di Mirano, che nei miei confronti si è sempre dimostrata, dal mio punto di vista, negligente o incompetente, nel senso che, cioè, questo abuso denunciato 3 anni fa rimane dov'è. Ecco, lei oltretutto denuncia una decina di abusi, non è tanto un abuso, ma più abusi compiuti dal suo vicino. Io ne ho denunciati una decina e purtroppo, proprio per la quantità di abusi che erano fatti dalla stessa persona, ne sono stati rilevati solo 5, perché probabilmente, cioè, veramente erano tanti da... Ecco, ma per cercare di capire, Sabadin, ce l'hanno con lei? È l'unico caso a Milano? Oppure Milano è un comune in cui effettivamente lei ha conoscenza di abusi che non vengono poi... No, ma non si tratta solo di abusi edilizi, un po' come nella mail, si tratta più che altro di negligenza, di incompetenza da parte di alcuni dirigenti degli uffici tecnici e degli uffici di edilizia privata, che a mio avviso sono più propensi a pensare ad altro che a tutelare gli interessi dei cittadini e del territorio. Effettivamente, perché... ecco, lei nella sua mail è stato molto molto duro. Ovviamente io non posso leggere i passaggi più duri, perché dovremmo avere, come è il mio stile e lo stile di ogni giornalista che si possa chiamare tale, dovremmo chiamare in causa le controparti, ma insomma lei parla proprio di una cricca di persone. Ma si tratta di un comitato d'affari. Ecco, è stato chiarissimo, un comitato d'affari, più chiaro di così si muore. Solo per portare a conoscenza i telespettatori, esiste un caso non simile al mio, tutt'altro caso, di una persona che aspetta un permesso di costruire da 9 anni. Ecco, allora, è un cittadino qualunque, non conta, non è importante, non c'è i soldi, ecco, è meglio tenerlo in disparte. Benissimo, come avete notato, io non ho chiesto, né mi interessa sapere, di che colore è la giunta di Mirano, proprio perché il mio distacco per la politica, voi lo conoscete, non nel senso di disinteresse, perché anzi amo la politica con la P maiuscola, ma proprio perché nessuno possa mai accusarmi, neppure di striscio, di guardare al colore politico degli amministratori, cosa di cui, ripeto, non mi frega assolutamente nulla. Allora, andiamo quindi al nostro assessore, di cui non conosco il colore, non conosco la tendenza, non mi interessa conoscerla. Spolaore, l'accusa mi pare abbastanza grave. A Mirano ci sarebbe un comitato d'affari che decide se si conosce, si è potenti, si va, altrimenti la si prende in saccoccia. A lei la risposta, Spolaore. Allora, Io voglio, tra l'altro, doverosa premessa da parte mia, che sono 15 giorni che mi occupo di edilizia privata. Prima, come ha detto lei, precedenza mi occupavo di edilizia pubblica. Allora, io fondamentalmente qui dentro, in questa amministrazione, sono un assessore tecnico. Sì. Quindi sono un assessore esterno al comune stesso di Milano. E mi sembra, per carità, io non voglio entrare, non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma mi sembra un'accusa abbastanza pesante, ma non voglio fare, ripeto, l'avvocato, perché non posso essere l'avvocato di questo. Però lei è di Milano, ha fatto l'assessore comunque ed ha conoscenza tanto del settore privato, del settore pubblico. È vero, come dice Sabadin, che se si ha la conoscenza giusta si va avanti, si costruisce? Oppure è vero anche il fatto che lui è da 3 anni che è senza risposta? È normale una cosa del genere? Allora, indipendente, uno dovrebbe dire al cittadino: hai ragione, hai torto, è un abuso. Questo non è un abuso. Cominciamo a fare magari un po' di mente locale su di che cosa intanto stiamo parlando. Certo. Un'ulteriore premessa però mi sembra anche doverosa. Noi siamo insediati da meno di un anno e mezzo in questo comune e effettivamente stiamo cominciando ad avere tutta una serie di micro e macro anche problemi, non ultimi problemi finanziari, che comunque non dipendono sicuramente solo dalla gestione del comune. Ecco, però andiamo a questi abusi, lasciamo perdere i soldi per il momento. Il signor Sabadin, in data 4 aprile del 2007, ha effettivamente denunciato, ha fatto un esposto in comune di Milano per una serie di abusi. Dopo varie vicissitudini anche da parte della polizia locale per andare a rilevare questi abusi, per una difficoltà di entrare proprio materialmente nella proprietà di queste persone, gli abusi di fatto, le pratiche di abuso di fatto sono diventate 2, perché nel frattempo le proprietà si erano divise. Se un abuso ha avuto un iter che si è concluso proprio, tra l'altro, l'altro ieri, perché le norme in vincolo ambientale prevedono la possibilità, nel momento in cui è stato rilevato l'abuso, di in un certo qual modo sanare, se questo è possibile essere sanato attraverso tutta una serie di passaggi. Ecco, però Spolaure, adesso lasciamo perdere tutti quanti i passaggi tecnici, intendo dire, le sembra normale che dopo 3 anni un cittadino attenda ancora una risposta? E poi le chiedo, ma insomma, quante persone si trovano in queste condizioni? Quando voi arriverete a casa di Sabadin per dirgli, per lettera con raccomandata di ricevere il ritorno o con una convocazione nei vostri uffici: allora, caro Sabadin, la situazione è questa, mettiti il cuore in pace, non si tratta di abusi, oppure sono abusi, ora interverremo. Ecco, quando arriverete a questo, Spolaure? Ecco, allora, le voglio spiegare però un attimino, cioè far capire ai radiospettatori e quali sono anche le problematiche burocratiche inerenti al problema stesso dell'abuso. Cioè, in poche parole, abbiamo tutta una serie di normative che portano a una burocratizzazione dei procedimenti, che sono enormi. Certo. Infatti, io dico giustamente, il signor Sabadin mi ha fatto notare, perché poi ho anche parlato assieme al signor Sabadin, quindi non so di cosa si tratta, e lui sa di quello che abbiamo parlato, anche perché qui siamo in una condizione che un dirigente può scegliere la tipologia dell'abuso, cioè la normativa da applicare a seconda quello praticamente che gli conviene, cioè in poche parole. In questo caso è stata applicata una normativa che fa capo al cosiddetto codice dei beni ambientali, piuttosto a una normativa che fa capo al testo unico a livello nazionale, che è molto più rapida rispetto a quella prevista dalla normativa del codice dei beni ambientali. Ecco, però concludiamo con 10 secondi, Spolaure. La risposta comunque arriverà e l'impegno ad essere più rapidi e veloci ci sarà da parte del Comune di Milano? No, addirittura, visto dal momento in cui sono venuto a conoscenza di questa pratica, e per fortuna dico a Sabadin che non ce ne sono tante, per fortuna mia poi tra l'altro, certo, ho già posto in essere, visto che sono anche un architetto, ho già posto in essere ai miei uffici che i prossimi abusi edilizi e anche quelli che sono in corso, dove si può fare, si applicano entrambe le normative. Benissimo, allora io la fermo qui. Spola Ore, ringraziandola per il suo intervento. Ringrazio Sabadin che ci ha scritto. Come vedete, purtroppo l'Italia è il paese delle leggi che si rincorrono e che poi vanno a danno del cittadino, non soltanto nel sud, disastrato dagli amministratori, spesso in prima fila nel distruggere le bellezze di questi luoghi, ma anche nel ricco nord-est. Questo dovrebbe far riflettere tutti un po' di più. Grazie ai nostri radioascoltatori, grazie in regia a Pietro Lacorte, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani.